Bentrovati a questa nuova diretta estemporanea. K. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. È sempre un piacere sentire la tua voce che arriva così radiofonicamente, K, devo dire. Ben trovato anche tu, K2. Come ci... K2 mi fa sentire alto in qualche modo. No, in realtà siamo entrambi K2, K e K, quindi siamo una sorta di potenza di K. Che potrebbe anche essere... noi, la radio arriva dall'etere, quindi comunque dalle cime di K2 vi arriva questa trasmissione radiofonica e streamofonica? Può funzionare streamofonica, secondo te? Potrebbe funzionare, oppure io, guarda, sai cosa? La chiamerei più streamadelica. Streamadelica, che con un certo richiamo, esatto, citazionistico. A un bel dischetto che fecero i Primal Scream. I Primal Scream, esatto. Un po' di tempo fa. E direi che anche il nome della band si addice a questi tempi un po' devastati. Sì, quest'urlo primordiale. Primigenio. Esatto, ci vorrebbe, ecco, forse una cosa che non facciamo è che non urliamo abbastanza. Che ne pensi? Sì, siamo assolutamente. Non reagiamo ormai praticamente. Come hanno ripetuto in molti in questo periodo, siamo delle rane bollite che a poco ci stanno facendo crepare senza che ce ne accorgiamo. E questo è un po' il dramma. Negli ultimi Il anni dramma. non è la prima volta, esatto, che sento questa metafora, questo racconto per immagini. Ed è vero che l'idea, se metti una rana nell'acqua fredda e poi aumenti man mano la temperatura, la rana man mano si adatta e poi a un certo punto muore perché l'acqua diventa bollente, ma la rana si è abituata e quindi non le viene più neanche da saltar fuori. Ed effettivamente un po' c'è questa sensazione qui, no? Che siamo delle rane che stanno immerse in un ambiente la cui temperatura continua ad aumentare, ma aumenta lentamente, quindi noi ci abituiamo in qualche modo. Esatto, e c'è anche comunque questa diciamo metafora, anche comunque un ulteriore risvolto di attualità, se pensiamo anche a tutto il discorso del riscaldamento globale, no? E della catastrofe climatica, È per cui vero, questo forse. a poco questo riscaldamento che ci uccide, no? Senza che non ci accorgiamo, senza che riusciamo a vedere o reagire o a Giusto, invertire, mi fai sì. pensare che siamo fuori dalla metafora. In realtà, probabilmente siamo. È vero, in realtà si sta scaldando tutto e noi però ce ne accorgiamo, come cantano i Zen Circus, che arriva la fine del mondo, ma saremo in Bermuda infradito. Quindi dai, tutto sommato non ci va fatta male. Ovviamente con ironia, però è vero che questo discorso, della rana che viene messa in acqua fredda e poi l'acqua viene riscaldata lentamente, forse è diventato qualcosa di più che una metafora. Sì, è diventato proprio uno stato di una fotografia. Una fotografia, Fotografia. è vero. In questo ritrovarci radiofonico, stavamo scambiando qualche parola prima di iniziare la diretta. Ci dicevamo che forse uno dei temi portanti poteva essere questa percezione di catastrofe psicocognitiva. Tra l'altro ho fatto anche fatica a scriverlo, psicocognitiva, che da un certo Sì. punto di vista è un. Io mi sento sintomatico di questi tempi, nel senso come se interiorizzassi una certa difficoltà alla percezione chiara, alla comprensione del reale. E ti racconto questa cosa, poi, se vuoi facciamo una piccola sessione di psicanalisi, tu mi dici secondo te che cosa vuol dire quello che ti Vai. racconto. Psicostrimadelica. Psicostrimedelica. Ecco, quello che mi succede che quando parlo a volte confondo le parole che devo dire nella frase, invertendole, per esempio come se dovessi dire, tanto per rimanere in tema, l'acqua sta bollendo, magari mi viene da dire la bolla sta acquando, qualcosa del genere, no? Per cui inverto proprio il significante. E un'altra cosa che mi succede, l'ho notato quasi esclusivamente quando scrivo, su dei dispositivi digitali, e questo potrebbe aprire un'altra parentesi infinita, ma adesso la lasciamo un attimo lì aperta, ma non avanzata. E quando scrivo con il computer, con il telefonino, mi capita, di ingarbugliare le lettere all'interno delle parole che scrivo. Per cui scrivo, guardo cosa ho scritto e dico: ma no, cioè, perché ho scritto. Magari ho saltato due lettere, ho saltato una lettera e due le ho invertite, no? Per cui viene fuori una roba che è riconoscibile come forma, ma è chiaramente un errore, è chiaramente un garbuglio di lettere incasinate, senza senso. E mi chiedo, cosa vuol dire questa roba? Di cosa è sintomo? È un mio decadimento Esatto. cognitivo o forse c'è la stanchezza? Sì, Forse. Co cos'è? Cos'è secondo te? quello Quel. sicuramente, perché cioè, ormai voglio dire, non abbiamo più 20 anni e stiamo invecchiando, quindi Siamo quello decaduti. sicuramente c'è, lo mettiamo proprio Ok. come dato di fatto. No, però sicuramente è sintomo di altro, è sintomo di molto altro che del fatto che noi viviamo dentro una infodemia. Cioè, che è Sì. una malattia del linguaggio, di tutto ciò che in questo momento, cioè di questo ambiente artificiale in cui viviamo immersi, stimoli, segni, parole, messaggi dalla mattina alla sera, e in qualche modo il nostro cervello non gliela fa, arranca, e sono segni di una macchina che inizia un po' a perdere colpi, no? A impazzire. E poi anche se vogliamo, cioè il linguaggio, c'è chi l'ha letto come una forma, proprio un linguaggio come un virus. Già, già. E quindi anche questo è un ulteriore sintomo di qualcosa che ci sta accadendo, di cui noi probabilmente non siamo consapevoli, fatichiamo a essere Esatto, consapevoli. esatto. Però ci sta cambiando, ci ha già cambiato. E se il linguaggio è un virus e un virus si aggiunge al linguaggio che è già un virus, cosa succede? Come dicevamo prima, siamo dei K in potenza, abbiamo un virus in potenza e quindi, che, anzi, in, sì, che, esponenziale, che cresce, che contagia, che tocca tutto. Boh. Succede che si iniziano a perdere i pezzi di senso, si inizia a perdere. Si iniziano a perdere dei pezzetti di senso, sì, questo mi sembra molto, molto vero, almeno io me ne rendo conto spesso. Esatto, e questo discorso appunto di perdita dei pezzi ne parla un brano che io ti ho prima inviato da mettere in questa trasmissione, perché questa è una trasmissione di parole, ma anche di musica di un certo tipo, Ok, aspetta, come qui scattano i problemi di regia. Qual è dei, è il primo, no? Perché se devo, poi lo devo andare a no, cercare. il pezzo si intitola proprio A pezzi, e l'autore, ve lo diciamo. Oppure ve lo dico adesso, intanto che il buon K Sì, dillo adesso perché io sto cerca ancora cercando. il pezzo che si collega a queste nostre riflessioni sulla frantumazione del senso, sul virus del linguaggio. Si chiama In Shreds, che significa a pezzi, e è una canzone di un gruppo inglese che noi amiamo moltissimo, che si chiamano Chameleons. Ok, ce l'ho qui davanti. Ci ho messo un attimo, E scusami, ma no, sono stato io che mi hai teso un tranello. Ma no, in ho realtà, teso un tranello, perché torniamo al discorso di prima. In realtà, il problema è che ci sono dei pezzetti che sfuggono, ci sono delle carenze cognitive, c'è cioè qualcosa che non funziona nella percezione della realtà, e quindi anche la decodificazione dei segnali richiede più tempo. Diciamo, spieghiamola così, che sembra una cosa fighissima, quando in realtà siamo solamente esausti e storditi, probabilmente. sì, ma diciamo non dipende solo da noi, cioè c'è Esatto, un questo è elemento fondamentale. esterno, un elemento sistemico Esatto. che noi dobbiamo in qualche modo imparare a riconoscere Esatto, intanto almeno e riconoscerlo. anche magari a difenderci se vogliamo conservare ancora qualche proprio barlume di libertà, di Di vita, di cognizione, di vita. Ok, cognizione. allora io adesso metto i Chameleons e poi dopo continuiamo questa conversazione. Ho già due o tre robe su cui di nuovo voglio chiedere la tua opinione perché Mamma mia, c'è da discutere, c'è da raccontare qua. mi sento un po' oracolo Fai stasera. il K oracolo, va benissimo. Dai, allora a pezzi con i Chameleons, poi ricominciamo. Thank you. Bel suono wave dark di come quelli che piacciono a te, K. Una meraviglia, meraviglia. Sì. Ho avuto anche la fortuna di ascoltarli dal vivo e insomma quasi da goccioloni ascoltare queste canzoni. Sembrava di essere nella Londra degli anni, appunto, primi anni 80. Dove per il resto non sono mai stato, però l'idea era quella. Però è una percezione che ormai è allargata e condivisa. Esatto. Allora, prima di continuare a discutere su questa catastrofe psicocognitiva e i sintomi che questa catastrofe psicocognitiva porta su di noi individui, vorrei ricordare che questa è una non trasmissione, in realtà è una conversazione privata tra K e K che abbiamo deciso di aprire all'ascolto pubblico, anche se in realtà non facciamo davvero promozione, non stiamo spingendo questa trasmissione, anche perché non ha orari, non ha frequenze stabili, non ha niente di ciò che farebbe una trasmissione radiofonica tradizionale, se non appunto l'essere qui, parlare davanti a un microfono e mettere qualche canzone. Però abbiamo comunque un canale Telegram che si chiama Distopiche Stanchezze, in cui vengono pubblicati i link qualche minuto prima delle dirette e poi quando sono riuscito a preparare il montaggio per i podcast, per chi volesse riascoltare in un secondo momento. Il canale, tra l'altro, lo avevo aperto perché era privato, lo avevo aperto durante l'ultima trasmissione, l'ultima conversazione che abbiamo fatto, con l'idea di chiuderlo alla fine della diretta. In realtà l'ho sempre lasciato aperto ed è rimasto aperto, per cui tale rimane. Quindi se cercate Distopiche Stanchezze su Telegram lo trovate e potete seguire un po' di aggiornamenti. L'altro canale che abbiamo è un profilo Mastodon. Mastodon è un social network non commerciale, non tracciante, non invasivo come gli altri, e su Mastodon siamo su un nodo della rete italiana che si chiama nebbia.fail e quindi il profilo a cui potete trovare gli aggiornamenti su questa trasmissione, magari ogni tanto anche qualche link e qualche altra condivisione, il profilo è stanchediste@nebbia.fail. Credo di aver fatto tutto quello, di aver detto tutto quello che... Ah no, non è vero, manca un pezzo in realtà, manca un pezzo, che abbiamo una pagina su Archive, archive.org, che è quella dove mettiamo i podcast, adesso non l'ho sotto, ma comunque se su Archive cercate Distopiche e Stanchezze ci sono buone possibilità che troviate la nostra pagina, ecco. Siamo comunque in un sacco di posti, eh? Riflettevo mentre dicevi, mentre davi tutte queste coordinate, no? E adesso si parla di profili, di canali, di nodi. Un tempo c'erano le frequenze, stop, radio, e adesso siamo... Siamo ipercomunicativi, nonostante cerchiamo di nasconderci. E come cantavano giustamente i Chameleon, se tu mi facevi notare... Non c'è nessun posto in cui nascondersi, quindi anche il nostro tentativo di nascondersi probabilmente è destinato a fallire. Esatto. Guarda, comunque, dimmi. No, tu mi avevi prima anticipato una specie di domanda che mi avresti rivolto. Sì, è vero, hai ragione. In realtà non è propriamente una domanda, ma è una riflessione. Siccome tu parlavi di infodemia, no? Quindi, e mi ricordo la conversazione scorsa, parlavi di infosfera, in cui siamo immersi, no? Quindi con questa velocità con cui siamo bersagliati di contenuti, di notizie, di cose che nel 90% dei casi sono trascurabili o irrilevanti, probabilmente. Però ci siamo immersi, no? Quindi abbiamo questa iperstimolazione del nostro cervello, dei nostri neuroni, ma anche dei nostri sensi, perché c'è la vista, c'è il tatto quando tocchiamo gli schermi dei nostri telefoni per aggiornare tipo slot machine nella speranza che magari arrivi un cuoricino, una stellina, una notifica, qualcosa di nuovo, qualcosa che ci tenga ancora più attaccati lì, ma che... a cui attribuiamo un po' quella speranza, no? Tipo, ah, magari adesso arriva quel like che mi cambia la vita, cosa che ovviamente non avviene mai. E siamo immersi in questo flusso, in questa tossicità informativa e comunicativa anche in qualche modo. E mi veniva da pensare a una considerazione che fa Liu Cixin, un autore di fantascienza cinese, che a un certo punto dice: noi stiamo avendo a che fare con delle tecnologie sviluppatissime, elevatissime, velocissime, complicate, e ci stiamo relazionando a queste tecnologie, ed è il caso nostro oggi, con il cervello di un uomo preistorico sostanzialmente, perché i cambi, le modifiche strutturali all'interno dei sistemi cognitivi delle specie, in questo caso la specie umana, avvengono su distanze temporali che hanno a che fare con migliaia e migliaia di anni, si parla di 15.000 anni, qualcosa del genere, perché una modifica cognitiva di adattamento all'ambiente circostante diventi un tratto costitutivo degli esseri e possa essere anche eventualmente tramandato, quindi una forma di adattamento del cervello per cui riusciamo a gestire più informazioni, eccetera. E quindi sostanzialmente quello che... cioè, per me questa cosa è verissima. Se noi ci troviamo davanti a dei sistemi tecnologici e però ci relazioniamo a questi sistemi con un cervello da primati evoluti, poco più. E questa cosa qui ha delle conseguenze drammatiche sulla nostra capacità di gestire tutto quello che ci viene addosso. Assolutamente sì, un po' come se fossimo ancora dei Neanderthal che giocano col fuoco. Solo che il fuoco, oltre che a bruciare, cioè nel senso sì, brucia il cervello in tanti casi, nel senso proprio spiana le sinapsi, no? Rende impossibile ricordare, rende impossibile approfondire, rende impossibile capire a volte. Sì, rende in realtà quello che mi spaventa più di tutti è che non riusciamo a renderci conto di come tutto questo ci ha cambiato. È un po' il tornare a quello che dicevamo prima del discorso della rana bollita, no? Mm-hmm. Questo adattamento, questo, questi, piccoli cambiamenti quotidiani e poi arrivi a un certo punto che nell'arco di 10-20 anni è cambiato tutto e però quasi non ti ricordi più come erano le cose prima. Sei cambiato proprio il nostro modo di pensare, il nostro modo di relazionarsi, è cambiato tutto e noi però non siamo assolutamente consapevoli di questo cambiamento, di come sia proprio cambiato il nostro modo di pensare. E mi sembra che ci sia una pochissima riflessione, no? Su come queste nuove tecnologie, nuove forme di comunicazione, di lavoro, eccetera. Poi tutto ha avuto un'accelerata pazzesca in questi 2 anni Sì, di pandemia certo. e ci siamo dentro, ma non riusciamo ancora, secondo me, a vedere quasi nulla. C'è un Cioè, altro. siamo Sì. agiti, siamo agiti dalle cose, non Sì, sì, siamo. sì, sì, sì, sì. C'è un altro discorso in realtà che si lega a questo. E oggi stavo leggendo la newsletter di un amico. E in questa newsletter parlava della percezione, no? Possiamo dirlo, nel senso noi che comunque abbiamo un po' vissuto gli anni 90, no? Il fermento culturale, musicale che c'era negli anni 90, di pensare che gli anni 90 siano tutto sommato ancora 10 anni fa. Cioè di avere questa sorta di discarto temporale, no? E voi dici, ma vabbè, ma gli anni 90, cazzo, era l'altro ieri, e invece no. E No. invece non era l'altro ieri, invece il web che a quel tempo si stava iniziando a diffondere, diciamo, su una scala più globale, era qualcosa di completamente diverso rispetto a quello di adesso. Ricordo anche i primi anni 2000, non c'era YouTube, non c'erano i social network, non c'erano gli smartphone. Eppure adesso, in questo presente che continua a essere un palinsesto, quindi è un presente che continua a riscrivere, reinscriversi su se stesso, cancellando le tracce di quello che è venuto prima. Sembra che abbiamo sempre vissuto con gli smartphone, per esempio. Assolutamente sì. C'è un tratto inquietante. Esatto, c'è stato un prima degli smartphone, viene davvero E forse verrebbe quasi da chiedersi: c'è stato un prima? Cioè, esiste il passato? Al di là della concezione ontologica, nostalgica, no? Della rievocazione, dei temi, dei cliché, degli anni 80, degli anni 90, cioè, viene quasi da pensare che forse. Perché poi, in realtà, e qui faccio dei salti, stavo ragionando questa mattina sul fatto che la possibilità che l'esistenza nostra, la nostra esistenza come genere umano, ma l'esistenza stessa del pianeta, delle nostre tecnologie, dei nostri libri, dei nostri divani, sia in realtà il risultato, cioè c'è un miagolio, sento un miagolio, esiste questo gatto, per esempio. Sì, non è quello di Schrödinger, è un gatto che È un gatto che esiste esiste. ed è il mio gatto, per cui Ok. oggi in trasmissione non sono solo, sentirete anche Quindi lui, sono KK e contento. K, perché sarà anche lui K comunque per l'occasione. Esatto. E no, mi dice che quindi che la possibilità che la nostra esistenza come genere umano sia una simulazione è qualcosa che è preso in considerazione da un punto di vista di studi scientifici proprio, non tanto e non solo come, diciamo, speculazione letteraria, culturale, fantascientifica, viene proprio preso in considerazione dicendo, ma forse effettivamente noi potremmo essere una simulazione creata da boh. E questo Guarda, forse potrebbe avere anche un sì. effetto sul discorso del passato presente, il fatto che la percezione di ciò che c'era prima scompare in qualche modo. Guarda, io penso che l'ipotesi della simulazione, di cui hanno scritto anche insomma, scienziati e ricercatori insomma, importanti, non è una boutade, anche su riviste importanti, cioè è proprio presa in seria considerazione. Certo. E può avere, a mio avviso, degli elementi di realtà, di veridicità, maggiori addirittura di altre ipotesi che, come dire, vengono presentate come certe, ma sulle quali ci sono anche tanti scienziati che hanno molti, molti dubbi. Mi riferisco all'ipotesi del Big Bang, Sì. che in qualche modo, anche lì, alla fine si ritorna sempre al discorso di una creazione dal nulla, no? Si toglie semplicemente il discorso di Dio, lo si chiama Big Bang e di lì sarebbe partito tutto verso mentre ci sono tante altre teorie Sì. che vanno oltre. Per cui ecco, invito veramente a chi ci ascolta ad approfondire, a leggere tutte queste cose perché sono veramente, veramente affascinanti. E se posso dare un consiglio di un libro che forse è Credo veramente che tu possa. tra i libri più belli, più affascinanti, più imperdibili che io abbia letto, e si intitola Perché il mondo esiste. Sottotitolo che aiuta a capire meglio di cosa si tratta, una detective story filosofica. C'è un giornalista americano che si occupa di cultura, di scienza, che è andato a intervistare i massimi scienziati, pensatori, filosofi, come se andasse alla ricerca di un colpevole, come un giallo, e ha messo assieme appunto tutte queste cose in un libro che è quanto di meglio si possa leggere sulla domanda delle domande, ovvero perché c'è qualcosa anziché il Niente, nulla, niente, che esatto. già questa su cui si sono arrovellati sin da millenni fa filosofi, pensatori e E il fatto eccetera. che siamo ancora senza una risposta, e comunque, anzi, in realtà, Esatto, scusa, anche perché secondo me il gatto K una risposta ce l'ha perché è estremamente desideroso di partecipare in questa conversazione. esatto. Probabilmente quella che sta dicendo è la risposta, soltanto che noi non la capiamo. Perché non siamo evoluti quanto i gatti, in realtà, perché poi è questo il. Esatto. E il bello di un libro come questo, che il titolo stesso è una domanda, uno quando inizia a leggerlo ha in mente tutta una serie di cose, no? Pensa di trovare delle risposte, e quando arrivi in fondo ti moltiplica in modo esponenziale le domande. Che è la cosa migliore da fare, in realtà. Esatto, quello che dovrebbero fare insomma poi i bei libri. E tra l'altro si riferisce tutto il libro a un'indagine su quello che è il mondo esterno, ovvero tutta la realtà che esiste, il perché esiste, ma si conclude con delle domande enormi sul, in realtà, il mondo interno nostro. Ah, è bellissima questa cosa. E quindi c'è questo doppio, insomma, piano, livello. Tra l'altro, se posso interromperti, Certo. c'è tutto tutta una parte della ricerca contemporanea, che anche molto interdisciplinare, no? Che mescola quindi un approccio umanistico con invece un lavoro, diciamo, più legato alle scienze dure. Che mette insieme questi discorsi, quindi appoggia anche una certa teoria letteraria, una certa osservazione dei fenomeni umani attraverso una lente che include gli studi scientifici, penso alle neuroscienze, alle scienze cognitive e altre, ma anche a volte anche alla chimica, alla biologia. E quello che in molti ricercatori, in molti libri sono anche stati pubblicati a riguardo, stanno cercando di fare è di ribaltare, di cambiare la prospettiva che abbiamo, non dico sempre avuto, perché il nostro sempre è comunque la società occidentale contemporanea, quindi stiamo parlando di al massimo un paio di secoli, che è un frammento molto breve nella storia dell'umanità. E quindi di spostare, no, la percezione da un lato, di togliere l'uomo dal centro dell'analisi. E quindi di mettere l'uomo in relazione con gli altri sistemi, che siano viventi e non viventi, organici e inorganici, comprese le macchine, per esempio, quindi compresi i computer, nella misura in cui si possa, ragionare su diversi tipi di cognizione e a volte in certi casi anche diversi tipi di intelligenza che non siano, quella cognizione, quell'intelligenza che noi prendiamo come uniche esistenti, che sono quelle umane. E quindi c'è sempre Esatto. questo costante lavoro di messa in contatto tra, come dicevi tu, interno e esterno, e Esatto. mondi diversi e percezioni diverse. Ecco, se posso collegarmi, perché poi vedi il bello di questi, come dire, lampadine che accendiamo, e accendendone una poi se ne accende un'altra, magari anche un po' inaspettata. Io, mentre ascoltavo quello che dicevi, mi è tornato sotto gli occhi un appunto che mi ero fatto dal libro Perché il mondo esiste, di cui parlavamo prima, al titolo di un articolo della rivista Le Scienze italiana che mi ero messo da parte, che si intitola Perché la vita in realtà non esiste. Ecco. Cioè, quindi siamo passati dal piano cosmico, no? Del tutto, e ci domandavamo perché il mondo esiste, a questo articolo che ha questo titolo, che adesso vi spiego, perché la vita in realtà non esiste. Vi leggo qualche riga, perché secondo me qui troviamo anche un aggancio a quello che tu proprio stavi dicendo adesso. Dice: perché scienziati e filosofi hanno fallito per secoli nel trovare una proprietà fisica specifica o un insieme di proprietà che separi nettamente i vivi dagli inanimati? Perché una proprietà simile non esiste. La vita è un concetto che abbiamo inventato. A livello più fondamentale, tutta la materia esistente è a una disposizione degli atomi e delle particelle che li costituiscono. Queste disposizioni ricadono in un immenso spettro di complessità, da un singolo atomo di idrogeno a una cosa intricata come il cervello umano. Nel tentativo di definire la vita, abbiamo tracciato una linea a un livello arbitrario di complessità e dichiarato che tutto ciò che è al di sopra di quel confine è vivo e tutto ciò che è al di sotto non lo è. Ma questa suddivisione non esiste al di fuori della mente. Non esiste una soglia passata alla quale un insieme di atomi diventa improvvisamente vivo. Non c'è alcuna distinzione categorica fra i viventi, inanimati, nessun, e inanimati, scusate, nessuna scintilla frankensteiniana. Ecco, questo è un articolo, lo trovate sulle scienze, perché la vita in realtà non esiste, lescienze.it. Ve lo consiglio, molto molto interessante. Ecco, allora io adesso ne approfitterei, visto che abbiamo messo tante idee qui, abbiamo buttato tante idee in mezzo su cui discutere, ne approfitterei per fare una piccola pausa musicale, ma questa volta il pezzo lo scelgo io, te l'avevo già detto in realtà qual è, no, nel senso, facciamo che ci negoziamo le nostre rispettive scalette Ma poi in realtà ci piacciono un questo po' tutte le cose che mettiamo, quindi va assolutamente. bene, perché stiamo aprendo un sacco di porte, quindi diamo un po' di appunto anche per ragionare in termini diversi rispetto al logos tradizionale, no, con cui ci si discute, ci si confronta, buttiamo anche l'emozione della musica, quindi aprendo altri orizzonti per proseguire il ragionamento, forse anche in altri modi, poi continuiamo a ragionare su queste e su tante altre cose. Thank you. If one day you should see me in the crowd, lend a hand and lift me to your place in the cloud. Avete appena ascoltato la voce di Nick Drake, Cello Song. So che è un pezzo K che anche tu mi approveresti, avrebbe potuto essere in una tua playlist. Questo è quasi tutte le canzoni di Nick Drake. Sì, sì, sì. E stavo pensando rispetto a quello che dicevi prima, no? Questa distinzione tra vita e non vita, tra organico e inorganico, tra essere cognitivo, capace di attività cognitiva e essere che invece non lo è. E effettivamente, visto che siamo nel mezzo di una pandemia gigantesca che non accenna a finire, il virus rappresenta in parte questo stato intermedio, no? Che è vivo e non è vivo, perché non è considerato un essere vivente, eppure agisce, e fa cose, ma non è dotato di una volontà, di una capacità cognitiva. E quindi questo irrompere del virus nella nostra cultura contemporanea, nella nostra società, nelle nostre vite, quindi anche con le conseguenze in termini di sofferenze, di dolore, eccetera, forse rappresenta anche un irrompere nella nostra capacità di analisi concettuale del nostro tempo, del nostro presente, della nostra vita, e forse in qualche modo ci dice che dobbiamo pensare diversamente, dobbiamo ragionare diversamente rispetto alle categorie che abbiamo assunto a colonne portanti dei nostri sistemi di pensiero negli ultimi, diciamo, appunto indicativamente nell'ultimo paio di secoli, considerando il pensiero occidentale contemporaneo come struttura di pensiero dominante. Non lo so, per me ci sono delle domande, no? Rimane comunque tutto molto aperto, anche se consideriamo, per esempio, che noi stessi, se ci consideriamo uno, reali esistenti, incarnati quindi all'interno di un corpo, in questo corpo ci sono una quantità inimmaginabile di batteri, di altri esseri, di cose che fanno, hanno delle azioni, hanno delle conseguenze all'interno del nostro corpo, del nostro agire, magari condizionano addirittura il nostro modo di pensare, le nostre spinte, eccetera. E quindi in realtà noi stessi non siamo uno, come senso un individuo, come identità unica, eccetera, ma siamo intanto una molteplicità di esistenze riunite all'interno di un sistema più grande. E allo stesso tempo la nostra percezione di essere uno, quindi di un'identità unica che si sviluppa nel tempo e separata dal mondo, molti studi stanno mettendola in discussione, questa percezione, ragionando sul fatto che forse l'identità è una sorta di meccanismo illusorio del nostro cervello, no? Quindi la percezione di unità è un meccanismo illusorio del nostro cervello che ci permette di percepirci così. Se si disattiva un pezzetto del nostro cervello con sostanze o in conseguenza di un evento tragico, un incidente, eccetera, e magari questa percezione di unità fisico-psichica salta, E allora si percepisce qualcosa di completamente diverso. E a quel punto la domanda è: ma se si può percepire qualcosa di completamente diverso, con le stesse, diciamo, con gli stessi punti di partenza fisici, chimici, biologici, allora qual è la percezione vera? Qua Ma che si aprono domande degli che qua, sono fatte, infatti, forse dovremmo tornare al cazzeggio qua si perché. aprono degli abissi, qua si aprono degli abissi. No, non che pretenda che tu K mi dia una risposta, forse il gatto K potrebbe aiutarci in questo momento, che forse lui ha qualche sprizzo di miagolo genialità. No, però comunque diciamo che porsi queste domande, mettere un attimo in discussione quello che è il nostro, così la nostra, anche banalmente la nostra identità, il nostro modo di pensare, cioè chiedersi, insomma, farsi qualche domanda è comunque sempre, sempre utile. E uno che si faceva tante domande, ad esempio, è il nostro amico Cioran, lo vogliamo chiamare, L'amico che Cioran, potremmo chiamare K anche lui, K Cioran, KC, K Cioran, Ma dovrebbe infatti, voglio essere K dire, aggiunto. potremmo farlo Cioran con la K. Cioran. Chioran, no? Sembrerebbe più un manga, un personaggio di qualche manga E che... sarebbe No, anche l'abbiamo divertente citato a... immaginarlo come personaggio di manga, Cioran. Pensavo a Kyashan, che è questa... E non apriamo ulteriori finestre. No, appunto, l'abbiamo citato, Cioran, abbiamo anche letto qualcosa la volta scorsa, a proposito di abissi, di messa in discussione, di cose. Ad esempio, lui dice, mettere in questione la nascita è una disintossicazione, è una liberazione. Ecco, perché disintossicazione e liberazione sono due cose di cui in questo momento ovviamente abbiamo un grandissimo bisogno tutti. Cioran dice, proprio perché vi si esercita da sempre il buddista, raggiunge il distacco e la serenità più sicuramente del cristiano. Nessun affrancamento di nessuna specie senza la rimuginazione sull'inopportunità di ogni venuta al mondo. Ecco, questo era Cioran all'interno di un, non so se un'intervista o una cosa molto breve, che si chiamava Beckett e l'orrore di essere nati. Ecco, Ecco, questo per dare Beckett è un un po' di... altro. Beckett è un altro che ha messo giù i suoi carichi su tutte queste questioni, ovviamente. Esatto. E tra l'altro. Vai, scusa, vai, vai, vai. No, no, no, vai tu, vai tu. Che gentilezza, potremmo far andare il gatto K, che forse. Io sto veramente sentendolo prima miagolare, ho pensato, cazzo, qui ci deve essere una rivelazione. E vabbè, magari arriverà a un certo punto. No, io stavo pensando, proprio mentre leggevi questa cosa qui, stavo pensando una cosa che credo di essermi dimenticato a proposito delle disfunzioni cognitive che ci caratterizzano in questi tempi. Eh no, mi sono proprio dimenticato, sto cercando di Allora, guarda, recuperarla, ma no, non mi riesco. inserisco perché Vai. ancora Cioran, perché quando uno inizia a leggere Cioran, i suoi frammenti, Vedi che è tornato però il gatto K. è Vedi, tornato il gatto ha K. delle sintonie, c'è qualcosa che lo Esatto, richiama. esatto. Abbiamo parlato di cosmo, no? Di fisica, di tutte queste cose, al confine fra scienza, no? E Cioran ancora che... Scrive, mancamento, lacerazione dell'essere, sequela di addii fatta sistema, suggerisce una fisica il cui principio non risiede negli atomi, ma nelle lacrime. È perduto chi non ha più lacrime per la musica. E noi la musica la amiamo alla follia e, se sei d'accordo, manderei un altro pezzo. Sono quasi d'accordo perché nel frattempo mi è tornato in mente quello che prima mi era dimenticato, questo appunto, questo mio disagio mentale. No. E in realtà, sì, mi è tornato in mente questa cosa, che è la diversa relazione che con la coscienza hanno, diciamo, il mondo occidentale e il mondo, diciamo, andiamo sempre per un po' per generalizzazioni, orientale, quindi, diciamo, lato più induista, buddista in generale. In Occidente abbiamo sempre cercato, o quasi sempre cercato, almeno la tradizione principale è stata quella della ricerca di ragionare su che cos'è la coscienza e quindi capire, dibattere, filosofare, eccetera. L'Oriente ha cercato invece soprattutto di farne esperienza. E quindi anche qui tutto il discorso, prima avevi citato il buddismo ed era per questo che mi è venuto in mente questo pensiero, il discorso della... della meditazione, no? Quindi dell'accettazione di ciò che è. Senza cercando di lasciare indietro i pensieri, senza giudizio, quindi senza una valutazione, senza un cercare sempre di capire o dissezionare quello che succede, ma semplicemente il sentirlo succedere, quindi il farne esperienza diretta piuttosto che ragionarci sopra. Questa è una grande differenza che c'è nelle tradizioni di pensiero, soprattutto per quel che riguarda la coscienza. E adesso invece colgo la tua proposta, però devo andare a guardare i pezzi. Ah, se puoi dirmelo tu, in realtà, dimmi che cos'è che volevi mettere adesso, che così lo vado a cercare. Gli Interpol. Hai detto. Comunque, stavo pensando anche a questa cosa. E Ecco, che siamo. no, vai, vai. Stiamo diventando, cioè, un po' troppo, non so, un po' troppo, poi in realtà va benissimo. Siamo densi, siamo seri, siamo filosofici, e secondo me. Forse dovremmo anche buttarle in vacca ogni tanto. No, non lo so, è un'ipotesi, sì, perché poi Sì. non so, sono passate le 11, inizia la stanchezza, eccetera, eccetera. Ci Ci andrà, ci andrà. andrà. Ok, allora intanto gli Interpol, poi andiamo in vacca e vediamo la buonanotte. Ci vuole sempre un attimo perché le canzoni partano. Eccoli qua. Stavo pensando mentre ascoltavo questa bella canzone, il primo disco degli Interpol, che se vogliamo diventare degli influencer bisogna che scegliamo argomenti più leggeri per queste nostre conversazioni clandestine. Può essere, può essere. Comunque, a proposito, anche di quello, una cosa più leggera, di quello che dicevamo, l'altro giorno ti ho girato la notizia, no? Che, cioè, ci sono i primi di Xenobot che praticamente hanno imparato ad autogenerarsi. Sono dei robot che si riproducono. È una notizia che robot viventi, appunto, che sono capaci di riprodursi. E visto che oggi, insomma, abbiamo affrontato un po' queste discussioni, no? Sulla vita, eccetera, mi domandavo quando avremo i primi computer che hai 8 giga di RAM e dopo qualche giorno diventano 16 perché ti si riproduce la RAM oppure. Sarebbe interessante e sarebbe sicuramente più interessante questo che piuttosto che di ritrovarsi con hai un computer sulla scrivania e ti ritrovi il giorno dopo con 7 tablet da 10 pollici che ti girano per casa, che Esatto, sarebbe ma molto più inquietante. infatti, ma soprattutto io mi domando, ma con tutta questa tecnologia in grado di fare tutte queste cose, ma è possibile che si debba lavorare invece sempre di più e Questo non debbano lavorare invece i robot oppure. è un tema che bisognerebbe iniziare all'inizio di una conversazione, perché il tema del lavoro, della robotizzazione, del fatto che sì, cioè che cosa ci siamo evoluti a fare se dobbiamo ancora passare la maggior parte del nostro tempo a lavorare per Esatto, allora se pensi vivere. che gli uomini delle caverne, vabbè, vivevano 30-35 anni come durata della vita, però insomma, a parte cacciare, tutto sommato, il resto se la spassavano forse come i gatti, non lo Sì, so. oddio, io considerando i miei, diciamo, non so, i miei problemi di vista, i miei problemi di respirazione, probabilmente se fossi stato un Neanderthal sarei morto molto presto. E quindi forse c'erano anche degli svantaggi, che magari erano dei vantaggi a livello di comunità, questo non lo so. Però l'immagine di un computer che si riproduce, devo ammettere, mi ha lasciato un piccolo senso di inquietudine. Non so come dormirò questa notte. Esatto. No, prima non mi ricordo, però È bellissimo. Prima non mi ricordo, ritorna al discorso del fatto che il passato non è mai esistito in realtà. C'è solo il Esatto, no, ma infatti presente. io comunque ho dei dubbi che queste trasmissioni nostre siano in diretta, io te lo dico, però No, ho ma dei non, dubbi. queste trasmissioni probabilmente non esistono neanche. Esatto, quindi cioè, a quelli che hanno creato questa simulazione, vorrebbe dire, ragazzi, sì, però potevate farla con meno bug, cioè Esatto, e forse lasciarci potevate. dormire un po' di più. Ricordo un meme in inglese che girava un po' di tempo fa, che diceva appunto, sempre si riferiva all'ipotesi della simulazione, ma e diceva doveva essere una sorta di tesina di uno studente che ha preso un 4, Un un voto 5, bassissimo. meno, un voto bassissimo, ecco, perché evidentemente, insomma, si poteva fare un pochino di meglio. Anche i meme. Anche sui meme ci sarebbe da. Ah, no, scusa, adesso non apriamo No, neanche la no, no, parentesi dei meme perché. ma i meme secondo me in realtà secondo me dovrebbero fare delle mostre d'arte su certi meme, perché C'è alcuni hanno qualcosa. una capacità sintetica che è fenomenale, una frase, un'immagine che dicono più a volte di libri interi che Però in trovi in qualche modo. testa alle classifiche di vendita Lo della so, però saggistica. in qualche modo rimangono sempre in questa necessità di velocità, di rapidità, di tutti in uno sguardo, tutti in un momento e poi dimentichiamo. E quindi in questo senso sì, sono, non so, pro e Ma sai cosa ti dico contro. in realtà? Cosa mi dici? In quale realtà poi? Perché anche la realtà, cos'è la realtà? Perché dobbiamo fare i filosofi, facciamolo fino in fondo. Cosa mi che dici? Dimmi. forse uno dei più grandi maestri del pensiero breve, no? Degli aforismi, dei frammenti, che è Cioran, che si è capito che noi lo apprezziamo. Ecco, se oggi fosse vivo, lui che è stato così bravo in una riga, due righe, tre righe, ha veramente sintetizzare pensieri che magari i filosofi hanno scritto in pagine intere con una lingua perfetta, tra l'altro, insomma, un maestro di pensiero e di lingua, oggi secondo me si esprimerebbe anche attraverso i meme. Lo dico così. I Allora, meme di guarda, Cioran sarebbero fantastici, secondo me. diamoci un obiettivo velleitario che non rispetteremo mai e che lasceremo cadere già da domani mattina. Facciamo Sì. dei meme cioraniani. Bellissimo, sì. Facciamo un profilo Instagram, ci facciamo i meme cioraniani, creiamo un grande seguito e poi dopo rilanciamo questo spettacolo, queste conversazioni radiofoniche. Monetizzandole sui social commerciali, non so, scusate, sono passate le 11, io sono stanco a quest'ora. Esatto, e anch'io ti dico, mi domando con le parole di uno scrittore, poeta che anche lui abbiamo già citato nella puntata scorsa, si chiama Aldo Nove, seguitelo, che è uno che ancora si fa domande, eccetera, che scrive: mi chiedo come si faccia a, mentre tutto perde ti, tra brandelli di senso sparsi, residuali frammenti che, mentre tutto non è più come, nell'indifferenza generale delle, un'inaudita violenza ma taciuta, la sparizione della normalità, un'inaudita tensione a cui abituarsi. Dov'è finito tutto, l'amore, e dove e cosa significhi a questo punto tutto, se tutto è falsificato e... A voi continuare. E mamma mia. Ok, allora io ho provato a ributtarla un po' in vacca, qui la riportiamo subito su un piano esistenziale. E però effettivamente quello che scrive Aldo Nove tocca i punti, chiave, è incisivo in questo senso. Cosa facciamo noi? Perché sarebbe bello buttarla in vacca. Ma sapere dove... Non so, non so dove vuoi andare, ma era sicuramente in vacca. Questa è la percezione che fosse così. Tanto va la vacca là. No, non era questa. Dov'è che la si butta? Dov'è che la si butta? Buttiamola così, buttiamola in musica e vi diamo appuntamento. Tra l'altro, io sono quasi convinto che non ci ha ascoltato nessuno in diretta questa sera, il che ha anche. No, è vero, a parte il gatto K che ci ha anche comunicato dei messaggi che non siamo stati in grado di capire, Ma io però. te lo dicevo prima, che io ho il dubbio che noi siamo in diretta, in realtà noi siamo Va, no, aspetta, aspetta, per il mondo, noi esistiamo solo in differita fammi ancora. controllare. Allora, OBS mi dice che siamo in diretta, però sai questo che vuol dire che sì, vuol dire che no, chissà. No, però in fondo rispecchia un po' il senso di questa cosa. Si era detto facciamo delle conversazioni e se qualcuno ogni tanto gli capita di venire ad ascoltarle, le ascolta. Poi magari decideremo più avanti che cosa farne di tutta questa chiacchiera. Più o meno filosofica di queste canzoni. Ricordo per sbaglio, se qualcuno per sbaglio altrettanto ci stesse ascoltando in diretta in questo momento, o se ci ascoltasse per caso sui podcast che mettiamo sulle nostre pagine di archive, che c'è un canale che si chiama Distopiche Stanchezze su Telegram, in cui mettiamo i link per le dirette e i link per i podcast. In cui devo ancora capire come abilitare i commenti per far partecipare le persone, ma quello insomma con calma. Non perché non mi interessi la partecipazione, ma perché questo è un progetto talmente estemporaneo che non è prioritario nelle nostre giornate. Che abbiamo un profilo Mastodon che è stanchediste@nebbia.fail e che abbiamo Comunque appunto la pagina di archive che è Distopiche Stanchezze, su cui. Con un po' di pazienza, dopo 2 o 3 giorni dalla messa in onda, arrivano le trasmissioni in forma di podcast per l'ascolto in differita che se sostiene Kappa. È sempre così, nel senso noi esistiamo in differita comunque. esatto. No, comunque forse più che un Dovremmo avere in realtà un profilo stanco, donna. Adesso quello ci arriveremo. Stanco Don è la nuova rete post-pandemica della stanchezza, lo stanco Don. Potremmo, beh, il codice di Mastodon è aperto, aver voglia di sbaghinare un po' col codice, uno può anche creare un fork stanco di Mastodon e fare uno stancodon per il bene degli stanchi e dei distopici come noi. K. Guarda, penso che a questo punto ci stia bene una canzone di saluti. L'ho già preparata, guarda, se è quella che mi avevi detto prima, sono i Sisters of Mercy, Mercy, No Time to Cry, giusto? Esatto, sì, perché Sono comunque sul dai, pezzo. siamo stati al solito un po' apocalittici, un po' distopici, un po' tanto stanchi, però Come l'invito è quello di. cantavano i CSI tanti anni fa, prima di conversioni cattoleghiste, l'Apocalisse è quello che c'è già. Mistica biomeccanica. Ecco, questo rumore è stato un frammento di Apocalisse. Secondo me è stato il gatto K che ci ha mandato un segnale chiarissimo di continuate a Sì, non capire nulla, chiudete questa no. trasmissione. Sì, no, è stato un gesto di ribellione. Praticamente, vi dico cosa è successo. Vai, curiosissimo. Con la zampa ha buttato giù dal mobile il telecomando della Ecco. Un televisione. gesto di ribellione, chiarissimo, chiarissimo. Fortuna che noi non andiamo in televisione. Esatto, il gatto è come diceva quella canzone degli anni 70, The Revolution Will Not Be Televised. Qui abbiamo E secondo un me il gatto K sa qualcosa che noi non sappiamo. sì, sicuramente sta meglio di noi. Sicuramente sta meglio di noi. Anche perché qualcuno che dorme 20 ore al giorno, cioè, ha veramente Come tutta fa la a mia stare peggio? ammirazione. Allora, Esatto. qualcuno mi chiede online se ci siamo ancora e io gli rispondo che stiamo chiudendo. Salutiamo chi per sbaglio, perché è sempre uno sbaglio, ci ha ascoltato in diretta. Salutiamo chi ci sta ascoltando più o meno per sbaglio, per caso, in differita, che poi, come sostiene K, è il senso della nostra esistenza di questa forma radiofonica. Salutiamo il gatto K che non ci svela quello che sa. E No, no, no, lui è soprattutto, il dicevi, mistero. scusa, e soprattutto. No, e soprattutto gli ascoltatori che ci ascolteranno nei prossimi decenni, È vero, perché tu hai questa prospettiva di su archeologia dei media, per cui dal futuro verranno ad ascoltarci sì, per cercare di decodificare il presente. su Web Archive Diranno, ma ci saranno questo? questi archeologi del futuro Ma questa espressione culturale, di cosa parla la musica? Ma che cos'era questa roba qui? Che cosa stava rapp... Eccolo, il grande gatto K che vuole mettere la sua ultima parola. Bene, Esatto. Saluta anche anche lui. questa è andata. Il gatto K saluta, io K saluto. Io K saluto pure. E ci sentiamo estemporaneamente alla prossima occasione che vi comunicheremo sui canali di cui vi abbiamo parlato a più riprese durante questa conversazione. Presto. Buonanotte. Ciao! Just a time to play.